Ma lo fa pure quando chiamo la 50, quando chiamo mia figlia, a posto. Ma fa? Ma è un casino. Tu cosa c'è? Vola. Sì, vola. Beh, anche a me lo fa la stessa cosa. A volte con lo telefono mi blocca le telefonate così. Magari sento l'altro, quello l'altro lo sa. A volte non sai che scherzo mi fa il telefono, più di una volta me l'ha fatto già. Allora, io vado a chiamare il G350, no? Fa lo sfido, cade la linea e mi chiamo un'altra persona ancora. Anche a me lo fa. Ah, chiudo subito. Mi chiamate, ma mi ha chiamato, no, per fare la chiamata, non sono lui tipo? Sì, sì, non fa l'automatico, anche a me lo fa voi. E mi sa che questa volta la famosa fa bisogna cambiarla, perché troppe cose che non vanno ci sono. A parte che si paga un bel, perché si paga un bel. Adesso io dovrei pagare queste 5 euro a cosa a dicembre, perché ci avevo un tanto dall'altro contratto che ci avevo con Vodafone, cioè mi era rimasto un tanto, e mezzo, deve pagare solo 5 euro, poi i prossimi mesi 15 euro. Ma mi pare brutto, sono andato a Città Mercato, ci sono tante di quelle vite, cazzo, che ti fanno pagare 5 euro, 7 euro, tutto il mese. Io ti pagavo 20 euro al mese, pagato. No, io ho fatto il contratto nuovo, perché non glielo chiedi? Quello per i 61 anni. Dopo i 60 anni c'hai un contratto che ti danno, fai 15 euro. Sì, aspetta, l'ho chiesto anche oggi, stiamo parlando con la Vola, di cosa ho fatto dopo 60 anni. Poi ci ho fatto, tanto mi danno minuti illimitati, però mi danno 4 giga solo, già io ho i giga illimitati pure. Ah, c'è il giga illimitato. K, minuti limitati, giga limitati, messaggi limitati, c'è tutto limitato. Poi non mi ricordo cosa, tutto limitato, ecco perché ho fatto il giro. Vabbè, 4 giga mi bastano, cosa me ne faccio di averne di più? Mi bastano 4 giga, per come lo uso io mi basta. Vabbè, ma io lo uso anche su internet, che ho visto spesso volentieri. E quindi a volte che io le brucio tutto 4 giga. Io lo uso un bel su internet, ma un bel però io ho la wifi a casa. Io ce l'ho, ma purtroppo non la fate neanche. Io uso la wifi, io uso quella lì. Non mi spreca i giga ti rispreca quando usi la connessione d'acqua. Cappa. Vabbè, pazzesco, dai. Almeno con 4 giga succede che poi devo entrare su internet. Se a Magnati faccio più giga, è tutto tutto. Io guardo che su internet entro tutti i giorni, ma non poco, non bello. Ci sto anche ore. E quindi a me non mi sono mai scaduti i giga. Rientro sempre in quel tanto che vado. Nessun problema, non è che vada a risparmio, se devo fare un messaggio lo faccio, se devo andare a fare una ricerca me la faccio, tutto uguale. Ecco, poi c'ho anche il PC qua, l'Acer, grande, grazie a Dio, però non è sempre toccato neanche quello. Ma è questo mobiletto che l'ho fatto in un modo, è troppo alto, no, devo fare diversamente. Che potevo mettere i bici sopra, a livello quando sono chiuso con il capo. Poi ce l'ha fatto alto, 1,40 troppo alto, già, ok? Vabbè, lo si può modificare. Tutto si può modificare, io faccio. Però c'è un bel po' di lavoro per modificarlo. Dunque, se dietro la base in sopra, devo metterlo sopra, per fare una copiana. Mia casino, mamma mia. E non ti rivede gara. No, questo periodo qua, scusi. Io faccio qualche cosa, penso, anche al lavoro lo stesso. Capo, comincio a fornire una parte all'anno, devo sedere, almeno 5 minuti, faccio lavoro. Mi tira tutto il nervo dalla natica, tutto, fino a tutto il piede, fino al pallone. Ma lo sento strano, sembra che il polpaccio non lo stanno stracciando. Infatti mi devo sedere per forza. Ecco la che non la giudicare fa tutta. Anche io l'ultimo periodo dovevo andare a sedermi, per forza dovevo sedermi, se no stavo male. Me l'aveva detto il medico del lavoro che avevo la cosa di sedermi. Avevo permesso di riposarmi anche quando c'era luce al piede. Avevo permesso di riposarmi, ma se ti vedevano i colleghi seduti, ti dicevano, a me cazzo, te ti riposa a fare volte di malattia, fai prima d'ora, se ti riposa a finocchio. Dove fa di notte questo qua? Ma tu hai nervi scaduto? No, per il femore. E qui ho avuto anche un'ulcera diabetica sotto al piede. Vabbè, qui là. Ma io sei di bianco. E se non voleva entrare nessuno, sei giù un milione. Sì, vabbè, io mi stavo ascoltando. C'è un cazzo la televisione, sta barbara la luce, mi ha rotto le palle. Io già non la guardo di certo. Ho messo il microfono normale, il suo originale, Claudio. No, vabbè, no, anche non mi fai i giochi. E beh, già, sta funzionando bene, cazzo. Sì. Hai visto, cazzo, subito rivedi un disimpero, cazzo, mamma mia. Beh, cazzo, da poi mi avevi detto pure di là, ho detto, cazzo, no, che cazzo ti un po' tutta qua. Io vabbè, gli altri sono radio vecchie già, ma non c'è voi, ma hai visto, io ogni tanto le faccio andare tutte e grazie a Dio sono andato bene. C'è il pace che non è così perfetto perfetto, ma cosa vuoi, sono radio vecchi, già, quindi prendi quello che hai, l'importante è che funzioni, che ti sentono, cosa di naffutti. Quando devi usare una radio, quando va bene, se va bene, come sta funzionando bene, usi il gas, se no usi il 3009 che è nuovo, ma cosa di naffutti, quindi altri di naffa, fa cosa. Io vedo sempre modulando col baracchino. Claudio, tu lo sai meglio di me, a me mi piace vedermi davanti agli occhi una stazione bella grande e il garage per me mi riempie tutta la mia visuale, mi piace un becco da poi che mi è sempre piaciuto, esce bene, più di gusti di buchi. È un apparecchio che è sempre andato bene, dai. Poi si può consumare qualche componente, ma quindi è facile cambiarlo, si trovano ancora le viti del garage, non si trovano magari quelli i microcomponenti, quelli che è difficile trovare, bisogna tirare da fuori, dall'India, da Ghis, dall'Asta, da America. Già, non penso c'è più occhio di me. È 2,50 m lunga, solo il DAC prende 1 m. Acceso, io sto usando il DAC adesso. Acceso è uno spettacolo da vedere, tutto illuminato. È chiaro che anche l'occhio vuole la sua parte e soprattutto cosa stavo dicendo? Stavo dicendo un'altra cosa, soprattutto vuole essere tutte funzionanti ed è giusto che è così, ma tu vai subito in paranoia, cazzo. Devi avere un po' di pazienza, scoprire perché non sta funzionando, se c'è qualche problema nell'impianto, se la radio, se no sono disattenzioni tue, stai più attento. Claudio, non vuoi vedere il guru dall'aereo, voglio vedere che si succede a te, che cosa, che ti si imballa per dire il 4.30 che ti piace, non entri in paranoia. Già sono andato in paranoia quando Luca mi ha detto Santiago 3 e invece avevo commutato l'antenna qua, nella base dove ci sono i vintage. Poi mi ha chiamato Luca, sono andato a rispondere senza antenna col 140, capito? E mi ha sentito Santiago 3 senza antenna, ma già di due. Vabbè, avanti Tony. Cazzo. E sono più forte del baracchino comunque, dai, il Galaxy diciamo che è uno del baracchino della BG7 più completo, dai, ma per essere più troppo. Infatti l'ho cercato a dire che l'ho trovato, da Cagliari e non lo so come fare. Può essere completo, ma io, radio completa, è bella, più del DAC, più del Galaxy, c'è il DAC e il Simba, a me il Simba mi piace di più del Galaxy, il Galaxy è uno di quelli che mi è sempre piaciuto di più, però il Simba mi piace troppo, il DAC lascialo perdere perché come il DAC, no, non per Galaxy chi tenga, è una cosa spettacolare da vedere, da usare soprattutto. Però il Simba è molto bello, Non so se c'è una foto da mandarti, forse ce l'ha Gianni, perché ho resettato il telefono, ogni tanto lo resetto, ma sai quanto è bello, ed è molto prima del Galaxy, ma c'è un funzionamento, guarda, se riesco a prenderlo, io parlo e tu non ti accorgi se sono col K, non te ne accorgi. Sono accorato, nemmeno io, non me lo ricordo. Cazzo, vorrei mandare ad una foto, il Per Simpson, il Simba, SSB50. Ah, Per Simpson, vabbè, tu chiami Simba, io non me lo ricordo come Simba. Vabbè, comunque, ognuno c'ha i suoi gusti, il DAC e il Galaxy sono due formati, due forme diverse, due concezioni diverse, uno ha lo stadio finale a valvole, eccetera, eccetera, l'altro è trasistorizzato, sono due apparecchi diversi, meglio tutti e due, perché non dico che non sia bello il DAC, però a me piace il Galaxy e c'è poco da fare. Sono stato sempre fissato col Galaxy, claro, sempre. Mi piaceva da ragazzina, mamma non me l'ha mai fatto perdere perché diceva che era troppo grande da tenere in casa, non c'era posto. Non me l'ha mai fatto comprare. Io lo desideravo da ragazzino, da quando avevo 15-16 anni, desideravo questo apparecchio. Poi ne ho avuto 4-5, Uno l'ho regalato, perché faceva questo rumore, mi hanno rotto le palle, e l'avevo comprato da internet, c'era quel trasformatore che poi bastava fare solo una cosa, fargli un buco, fargli passare il filo e attaccarlo con l'alimentatore esterno. Invece chi me l'ha aguzzato non mi ha saputo dare un consiglio, io ero un ragazzino, quindi ho preso e l'ho dato, non ho voluto più aggiustare, dai, mi ha fatto pagare quei soldi e poi non l'ho aggiustato, me l'ha lasciato come era. Guarda, io tu ne hai avuto 5, ne ho avuto 3. Ok, io ne ho avuto 3, di cui uno posso andare a prendermelo domani mattina, mi scende macchina, ma mattina me lo prendo. Non lo prendo perché ti ho detto, voglio trovare il Simba, capito? Se non trovo il Simba, come dico io, allora vado a Fieri, ed è il mio quello, Danino 1, che purtroppo non c'è più, e lo sto vendendo, capito? Il figlio mi ha detto, quando vuoi vieni che te lo prendi. E vado me lo prendo perché è il mio, ma nuovo, nuovo come il tuo, immacolato, nuovo, ed era il mio, quindi ce l'ho sotto mano, io vado e me lo prendo, ma voglio trovare il Simba, voglio prima trovare il Simba e prendere il Simba, se non trovo, te l'ho già detto, mi prendo il Galaxy anch'io, ma perché è una bella radio, non perché sia la migliore di tutti o perché abbia il funzionamento completo di tutti, non è assolutamente vero, ci sono radio di quell'era del Galaxy che sono molto molto superiori, e io ne ho avuto tante, lascia perdere il DAC Gianni, per come il DAC ce ne voglio due di Galaxy, ok, tanto per i canali, tanto per il funzionamento, per lo stadio finale che c'ha a valvole, per la potenza che ha e per come è fatto. Questa radio, se tu la vedi dal vivo, ok, il pannello di davanti, il pannello è in alluminio cromato, le maniglie sono in acciaio inossidabile, è ancora lucido come il giorno l'hanno fatto. Tutti i pomelli non sono in plastica, capito, cromate, ma sono sempre in alluminio cromato. Tutto. È una cosa veramente da vedere. Dentro ti spaventi come è fatto. Dentro ti spaventi. È un altro funzionamento, ha detto, beh, proprio completamente un altro funzionamento. Però del Galaxy, ripeto, dell'era del Galaxy, io ho avuto, provato e visto anche a casa di altra gente, baracchini, perché sempre un baracchino è, perdonatevi, ma è così, io lo reputo baracchini, superiore a quello, come bellezza, ma superiore veramente, capito già, però il funzionamento di quello a te piace, è bello, e ce l'hai, io li ho avuti, ne volevo di superiore, infatti ho preso il DAC, avanti Torino. Vabbè, comunque se lo cerco su internet la trovo a preparazione, sì, però che gli interessi sì, già. Sì che lo trovi, negli Stati Uniti però. Negli Stati Uniti compri la radio a 150 euro, ok, poi ce ne vogliono 60 di trasporto e a 300 di sdoganamento. E quanto cazzo mi costa? Esatto. Dopo. Ma lo voglio cercare, sono curioso di com'è. E uno a Cagliari, 250 euro, capito? Ma è stazione base, sì. Base, siamo un 90 DAC, è appena più piccolo del DAC. Guarda, è come il Galaxy, ok, solo che è più alto. È bellissimo, bello, c'è un monopolone, come il VFO degli HF, ed è bellissimo. Bello veramente, a me piace tantissimo. Però c'è Gibson SC4, come si chiama? Principi sono Simba, dici tu, già l'hai trovato così. A te non piace già? Come, mai detto ti piaceva? No, non è che non mi piace, non me lo ricordo come è fatto. Ascolta, Tony, scrivi Pearce Simpson. Pearce Simpson. Noi cappa, ma dimmi la traccia. Ma non mandare la foto tua, dice che fu riformato quella che mi hai mandato tu già. Esattamente. Sì, mi ricordo che l'avevo vista, ma non mi ricordo se mi piaceva o no. Però, Claudio, io ho visto oggi su un forum che hanno fatto una cernita per sapere qual era l'apparato che piaceva di più ai CD. E hanno scritto tutti i Galaxy. Non ve ne sa più, c'erano Galaxy, c'era come si chiama, il Jackson, il President, diversi tipi di President, c'era un sacco. Beh, tutti i Galaxy hanno scritto. Johnny, ma è un coso di vita, è un punto di vista, ognuno può scrivere quello che vuole, ma non è che sia una percentuale. Se tu vai nei siti vintage, per dire, la percentuale, il più quotato, il più amato, amate, sono le radio americane, non è il Galaxy non l'ho manco conosciuto. Cos'è questo? 400? Mi sento io. Stanno arrivando già. Cioè, se io ti mando questo che mi ha mandato per dire Luca, no? Ti mando questo a te. Tu dimmi se questo è bello. Cioè, ti facciamo vedere. Cioè, ci sono radio che sono spettacolari. Questa è, guarda come c'è i canali. Tu sposti e si illumina uno per uno. Cioè, guarda, io te li mando, tu guarda, non ha niente a che fare col Galaxy, con le cose, capite? Comunque, è un'opinione diversa da quella che ho io. A me ci sono radio tipo vecchio che piacciono tantissimo, ci sono radio tipo nuove che non mi piacciono, Tony, capite? Adesso guarda, se me la fa mandare te la mando, Tony. Ma io l'ho trovato. È bello, però c'è una cosa che non mi piace qua. Il fatto dell'orologio a rullino, basta, le sai. Dell'orologio? A rullino, puoi convertire, strano, che brutto. Non capisco a rullino. Vediamo, a me me l'ha mandato Gianni. Vediamo se lo trovo. Vediamo se lo trovo quello che mi ha mandato Gianni. Bellissimo, come a rullino, non ti comprendo. Gli orologi meccanici sono questi, anche l'Inuit è così, anche il Pony è così, sono così io, perché sono vintage, perché sono di vecchia generazione, ma guarda quanto è grande, guarda quanto è bella, guarda quanto è bella e funzionante quella radio, guarda quanti pomelli va, 2, 4, 6, 8 pomelloni, guarda la VFO, che disegna il canale all'interno del VFO, è molto bella, se la vedi dal vivo è spettacolare. Sì, ma questo è Twitter, quello di canale Roto del telefono. A me è del Pilota del Galaxy addirittura. Tu perché non lo vedi il Pilota del Galaxy? Se l'ho avuto io, vai tranquillo, è Pilota del Galaxy. È più grande anche del Galaxy. Sto dicendo che è un po' più piccolo del DAC, vai tranquillo, io ce l'ho sott'occhio. E beh, già visto adesso, Gianni. Te l'ho mandato Gianni, gliel'ho rimandato, è molto bello, lascia perdere, eh. Poi ognuno dico c'ha le sue opinioni. Ad esempio questo Midland che io sto usando, che ho, adesso sto usando il DAC, ma il Midland che ho io è bellissimo lo stesso, molto più bello per dire del Pace, molto più bello del Pony, non è più bello dell'Inuit, a me l'Inuit piace di più per come è fatto, capito? Quel Pace che è tu, ce l'avevo anch'io, uguale identico, e faceva un casino quando accendevo per volare. L'ho regalato a Manuele, non so che tira ti fa. Per volare, no. Ah, il pace che ho io, il X2003, no, il mio è perfetto. Se vuoi te lo faccio anche sentire, non ce n'è problema. È perfettissimo, esce benissimo, me l'ha tutto revisionato, Luca. siamo messo i led bianchi invece delle lampadine per vedersi di più l'illuminazione dei canali, è tutto in originale, quando schiaccio la portante si accende on air rosso, c'è la locale distanza nel delta tune, è bellino, va bene, poi ripeto, ognuno c'ha i suoi gusti, io il gas vado domani e me lo prendo, del mio, però sto cercando questo, Tony. Se non trovo il Simba, allora mi prendo il Galaxy. Come sempre seconda radio, perché io uso o il DAC o il 574 o l'Inoit, non è che uso sempre il Galaxy, per averla. Gianni, io per sapere Simpson, Simba, è andato subito su. Lì che te l'ho mandata, mi già. Te l'ho mandata io a Gianni. Se non guarda il telefono, non ti manca il video, non devi avere il telefono, non te lo garascio. Ma tu l'hai mandato a qualche lato. A Giovanni non più gli ho mandato. A te l'ho mandato. Gianni non più lungo. Non ti è arrivato ancora. Allora non tratto, ma non ti è arrivato. Non tratto. Fammi vedere non tratto. Ecco, adesso ti è arrivato. Guarda quello che c'è sopra, tutto il legno. Una cosa spettacolare anche quello. Questo lo stesso ce l'ho sott'occhio, Torisce, voi te lo mando, guarda quanto è grande. Chi c'è ancora più umano di là. Aspetta, guarda. Quello quando giri il VFO, hai visto la barra che c'è in alto dei canali? Quella è verde, tutta verde, si illuminano tutti i canali. Sono solo radio che sono pazzesche. Questo guarda che, ma che cos'è? Un Sommercamp. Guarda, ingrandisci e guarda i canali, è bellissimo. C'hai i canali del pomello e poi te li illumina tutti sopra, uno per uno, guarda quanto è bello. E la voce digitale, il DS5024P, il Sommercamp base. Questo. E questi niente, non si trovano a poco prezzo. Oh, i vintage, ci volevo solo comprarli. Guarda, io non ti dico male, in questi pochi che ho preso ho già speso 700 euro. Senti, per me che pedito ha preso? Adesso si può qui, questo qua. Questo piccolino però, solo adesso un po' la canale. No, quel Sommercamp che ti ho mandato, ti è arrivato. Il Sommercamp base, 5024P. Guarda quanto è bello. È bellissimo. Ma perché lo guardo? E beh già, dormito dici. Gianni. E non sono visto. Sì, è arrivato questo. Ma tu però ce lo vedrai averlo a fianco, no? C'ha nella rotellina dei canali, come il 294 che c'ho io della Inuit, c'ha i canali, però automaticamente te li segna tutti, man mano giri i canali te li segna in alto, nella barra che c'ha in alto, molto bella anche quella. Avevo una sciacquina, oh, guarda io devo arrivare a 10, poi mi fermo, me ne mancano 3. E uno è il Simba, uno è il Galaxy e poi vedo se ne trovo qualche d'un'altra, però il Galaxy già per me non è vintage, capito? Non è un vintage che dico io, capito? Quindi vabbè, comunque lo metto qua sopra il DAC, perché della stessa misura il DAC come larghezza e come profondità, come altezza ce ne voglio due di Galaxy, uno sopra l'altro. Comunque Gianni ha telefonato, si è portato la prima. Ho capito, ha telefonato con la sua signorina. Va bene. No, guarda, Tony, la verità, io su radio tipo cable, tipo non spendo manco più una lira. Preferisco comprare baracchini, guarda, mi diverto di più. Assolutamente. Mi stasera, visto, sto parlando con l'Inter, che è perfetto. Il Pony, ah vabbè, il microfono normale, però va bene lo stesso. Il pace va bene lo stesso. Non c'è problema. Se vuoi te lo faccio anche sentire. Il DAC non si discute perché è a posto, sì, sono tutti a posto, questo è il 29, il 574 della Midland è a posto, capito? Adesso devo trovare un microfono per mettere sul Pony, sto cercando un 3+3, se lo trovo per mettere sul Pony, poi sono tutti col microfono attaccato. Quello che vedo tu è il P. PS50 24B. Sì, sì. Ma guarda quanto è bello, è tutto in legno, è come il Royce, però è molto più grande del Royce, più alto, più largo, più ciccione. Oh, vabbè. Però questo c'ha pochi canali, eh. Beh, quello è 23 canali sicuramente. Quello è 23 canali, l'altro invece è 40 canali. Sì, ma 40 canali, SSB. Poi c'ha, si può attaccare il woofer esterno e farlo, mi pare, 240 canali, 260 canali. È bellissimo, ma bello veramente. Io lo sto cercando, però l'ho già trovato a Cagliari, voglio 250 euro. Ed è troppo per me, sto dicendo vero, infatti gli ho già mandato un messaggio, ho detto se scendi a 200 almeno, ci possiamo mettere d'accordo, ma ha detto non è trattabile, allora devi dire, capito, 250 non si prende, ma non per i 50 euro, perché non si rivale, poi ognuno può mettere il prezzo che vuole, io da che prezzo non ne ho mai fatto, quando mi hanno chiesto quanto lo stai vendendo, fai tu l'offerta, guardati le quotazioni. Ma io ho detto voglio tanto, no? A Gianni mi glielo ho detto, mi dai 500 euro e te lo proprio per non venderlo, capito? Però il DAC mio, così com'è, nelle condizioni che è il mio, non lo vendi, meno di 350 euro. Ma no, che se... questo è un barattino che si fa tempo, dai, tempo sui canali, eccetera, eccetera, sui centimetro, è proprio un barattino normale gigantesco, non è che non si raccolta. E vabbè, questo che c'ho io, dati non è antico, cioè, non c'è il frequentimetro, ma è digitale, c'è il canale digitale, non è che c'ha tutti gli strumenti dove ti segna tutto, c'ha il rosmetro, il wattmetro incorporato, fatti il conto, ma grande paromi, gli strumenti che c'ha sono grandi quanto uno strumento esterno, preciso identico. Ecco, è tipo quello che c'ho io, senza il suo digitale, due strumenti, un certo centimetro, il posto, come stacco, si chiama, non vedo bene, ma... Solo che Gianni deve mettere la patina azzurra lì. Lo so, aspetta che devo cambiare il canale. Io ti mando la foto, ma poi il mio ti segna tutto. C'ha la GC, a senso vuol dire la GC, come un HF, cioè ti diminuisce e ti aumenta la velocità dello strumento, dello smitter, come l'HF, per la banda laterale, se no smatte, capito? Lui te lo aumenta, c'ha tutto. Non hai vista la foto del DAC? Ma quando l'hai data adesso? No, non l'avevi vista perché il DAC? No. Non l'hai mai visto il DAC? Non so qual è, ora si la conosco, ma adesso lo metto. Ah, sì, che ti mostro la foto, dove ti la mando, minchia. Ma quello che mi ha dato precedentemente? Nella foto che ti ho mandato dalla sala radio, dalla parte vintage, c'è il DAC, quello più grande di tutti, non l'hai visto? La prima foto, tu tre me ne hai mandato foto. Vorrei stare per il DAC. Quello che c'ha quattro frequenti, cioè quattro bisbiglia. Sì, quattro strumenti, Questo è un bestione, ragazzi. Un bestione. Allora, guarda, a fianco al DAC c'è l'Innoiti 294 e il 574, che non sono piccoli. Non arrivano alla grandezza del DAC, uno sopra l'altro sono. Ehi, non te lo guardo, te lo grande. Ma questo quanto canali c'ha? Questo il DAC è 120-240 canali. Se dici? Sì, sì, non c'ha l'FM perché è americana. C'ha RM, USB e LSB. Ma si chiama più DAC? Si chiama DAC Mark 10 questo, poi hanno fatto il Mark 5, hanno fatto il Mark 9. Ce ne sono tanti tipi, questo è il più grosso che c'è, DAC Mark 10. Questo è bello. C'è tre malvagiani che sono i buoni, subito illuminazione blu. Questa è tutta bianca originale, c'ha le lampadine di quella siluro, tutto il tappo dello strumento. E cambi la lampadina, non devi smontare niente, il tappo è incasso. Sotto il tappo c'è la lampadina siluro, incastrata. poi si è fulminata una, sono andato a fuggire, l'ho comprata e l'ho rimessa. Bellissimo qua. Se tu lo vedi dal vivo mi dici, cazzo, avevi ragione. C'ha le cromature come il giorno che è uscito, perché il pannello è davanti, non è verniciato, è proprio alluminio cromato, tutte le manopole sono alluminio cromato. Le maniglie, a differenza di quelle del gas che sono in ferro, capito, nero, tira buio, finisci tutta la cromatura nera, la vernice nera. Queste sono in acciaio inossidabile cromate. Ah, io qua sto leggendo dottrina DASCO 10, DASCO 10, H 1495. Ehi, secondo me umili sono problemi vostri. Questo è DAC Mark 10, DAC Mark 10, capito? Mark 10 SSB c'è scritto. È stato pagato l'esportazione dall'America $480. Ma forse non è questo. Hai detto DAC, poi? DAC, Delta Alfa Kilo, DAC, K, DAC, Mark, sempre K, 10, 10, la X devi fare, è numero romano, 10, DAC, Mark, 10, SSB. Ho una mano al microfono, c'è quello, ma Palmare ha preso il microfono, aspetta la fine. Trovati? Trovato. Scappa, dando al video, rovina. L'America l'ha visto comunque bello acceso. Ah, che video c'è qua? Sta regolando per la regia, sta messo. Ha spiegato tutti i manopoli cosa servono. Trovi qua, tra un altro acceso, è uno spettacolo. Se tu ascolti il funzionamento di quella radio, dice non è possibile. Sto dicendo che c'è cose pazzesche, veramente... veramente pazzesche, poi il funzionamento la senti, adesso sto andando ad esempio con la potenza massima e sono quasi 30 watt, 25 modulati quasi 30. DAC Mark SSB XSSB GP Radio Vintage Radio, iscriviti, carica, bello, bello veramente, sì. Fugio Luizzendi che non abbiamo domanda, no, una bomba, poi è bella perché è bella, non perché è grande o ce l'ho io, è bella perché è bella, venuta la va. E quello che lo fa metterci? $480 l'ho pagato io. Per vada fuori? È America, c'è americana. È arrivata un collezionista e poi l'ha passata a me, capito? È costata $480. Ecco, per $100 c'è meno di l'euro però il dollaro. E Tony, 420 euro so. Non sono 480 euro, sono 400, poco più di 400 euro. Grazie. Però è trovato pagato l'altra, sì. Ce le fanno pagare, cazzo, ce le fanno pagare. Ma però è bello guarda questo. Senta, preferisco più delle galaxie. Ah, sciapelle, non ce n'è come questa. Guarda che ce ne sono pochi esemplari. Ad esempio in Sardegna ce l'abbiamo in 3 persone. Io e altre 2 persone. In Sardegna, non... poi in Italia non so quanti ce ne siano in circolazione. Ma in Sardegna siamo in 3, mi è buco. Ecco. Sì, bello e bello. Chi sa, non va di pensione, si dice, ah, me l'ho preso pure io. C'è un cambio, mi dai i galacci. Tonino, perivella. Bicicletta. Ma non si è ritirato ancora, ma aveva ragione. Minchia, le 11 meno 10. Very bene. E quello c'è il senso il canale più bello del Galaxy. Non ne ha di più questo. Sì. Bello, bello, bello. Aiuto, scappia. guarda, io ho fatto un fioletto a questa radio. Tu immaginati che ce l'ho. Forse ce l'ho 7 anni. Forse anche di più. Non so. Che cazzo, ce l'ho di più. Cosa sto dicendo? Perché via Pascoli non ce l'avevo. Sono 10 anni qua. 10 anni ce l'ho questa radio. Non si è mai mossa da sopra la base. Ha fatto qualche volta dalla base dove adesso ha dentro l'armadio. Io perché tempo fa c'era la lira, avevo pagato il Galaxy, da Mario Melino, 750.000 lire avevo pagato, non ricordo ancora. Non so, le radio costavano. Le radio costavano, io avevo comprato il Boom in 23 canali che ce l'ho qua, bellissima radio anche quella, molto bella, tacromata, molto bella, con i canali a bande verticali, molto bella anche quella, io l'avevo pagata, l'avevo pagata da Pintus e Scarpa, che me l'aveva regalata mia nonna, allora, mi sembra che mamma mi aveva letto, io avevo 14 anni, mi sembra che mamma mi aveva letto intorno alle 200.000 lire, quasi 200.000 lire. Allora, dicevo, va a vedere dello 74. 74, 74, 74, la bellezza di 46 anni fa. Io ne ho 61, quindi sono entrato in radio che avevo 14 anni. Quindi, fate il conto, nel 1974 io sono entrato, perché nel 75 hanno dato le concessioni. Io ero dal 74 in radio, in via Cavour, a Porto Torres, a casa di mamma, avevo la Super Regibus. Arrivavo in capo al mondo, perché mamma entra a mare lì a Porto Torres. A Sassari ce n'erano tanti di CB, che poi sono diventati grandi, capito? E uno di quelli è proprio quello che hai nominato tu oggi, Giovanni La Freccia, capito? Dopo l'Anima di Toria, La Verde, Giuseppe Intrepido, tutta quella gente lì che c'era già, e io parlavo con loro, e parlavo col Boni 23 canali. Io con Scappia Giovisito, che c'era via di Sicilia. Allora era più avanti e di fronte dove c'era prima al supermercato, ma lì c'era il deposito della polizia. Quindi gli usiti abitavano di fronte, dove c'è più o meno il tabacchino per la zona lì. E sì, tempo fa, io sono sempre 74, avevo 20 anni, avevo qua. Gappa, già va bene. Già va bene, tu ne avevi 20 e io ne avevo 15, quindi è così. Poi avevo la KB23 che ho regalato col cuore a Marco Giulio e ce l'ha ancora, e ne ho avuto tanti baracchini. E ho avuto anche il Simba, però non era il mio, era il mio cugino di Ernesto. Capito? Quando lui è andato fuori lo usavo io a lavorare, l'ho usato io per un bel po' di tempo. E il Simba, lo stesso, ce l'aveva Corsaro Nero, il nonno di Gavino, Joker, che già lo conosce Gianni. Ma cazzo quant'era bello, ma bello però. Ecco. E comunque è bello, bello comunque. Perché? Quando vuoi fare il cambio, non c'è più. Guarda, farò prima, se non trovo, te l'ho detto, se non trovo il Simba farò prima per le mediarci. E non ci passa molto perché ne ho due sotto mano, eh. E sono tutte e due a buon prezzo. Tutte e due a buon prezzo. Uno lo posso trattare, l'altro no. Però non ne ho problemi con uno, capito? Assolutamente, perché gli ho fatto le cortesie, quindi non se ne crea problemi. Però sono tutti e due nuovi. E sono indeciso, perché il Simba potrebbe andare in un punto qua dove tolgo l'amplificatore grande che l'ho appoggiato lì e metto il Simba, perché sopra il DAC non lo posso mettere, perché è molto più pesante. pulsante del Galaxy, stai attento. Il Galaxy è molto vuoto come radio, non lo dico perché, però è molto vuoto, la cima è pieno, è un bel pesante che c'è radio, molto pesante. Capito? Il Galaxy è molto più leggero, quindi il Galaxy lo potrei mettere sopra il DAC, ma il Simba deve andare sopra la base perché è un bel pesante. Quindi quello che ho visto io con 4 strumenti, il colpo non può fare quello di certo che c'era una cosa americana, però il DAC, così è DAC. Sì, quello è il DAC. Quello è il DAC, però ti ripeto, il Galaxy sopra il DAC lo posso mettere perché è molto più leggero. Il Simba è un bel più pesante del Galaxy, quindi sopra il DAC non lo posso mettere perché mi potrebbe ammaccare la cassa. No, questo è solo di uno spiglio, facciamo scambio, va bene. Sì, c'ho un paio di lacci rossi e tu mi dai un paio di lacci bianchi. Tonino Pirivella. Cirimella, bicicletta. Ma te la metti a Cirimella, tu l'hai conosciuta a Cirimella? A Gavino Cirimella, quello che lavorava alla Camera di Commercio. No, Gavino Cirimella, per il corpo. Non te la metti, ricordo quella notte. Ora Cicchio Aspetti, ma che alle ricerche? Io vabbè quelli già l'ho conosciuti, ma io quando ero a Porto Torres ce n'era un bel CB, però stavo sempre a casa di Bartolomeo Chisielle. Bartolomeo, sì, Bartolomeo c'aveva la linea della Sommercamp completa, bellissima radio anche quella, non mi ricordo però che Sommercamp era. Era simile a quello che ti ho mandato, però era tutto cromato, non era così. Ed era 120 canali allora. Infatti io dicevo, che bello, perché c'è un bel canale per andare ad ascoltare, mi faceva l'SSB. Invece va via Rubuni, 23 canali e va via nuda. Semplicissimo baracchino come è adesso, che è nuovo, ma è semplicissimo. E tu a Ostro, ho conosciuto lei. A chi? Ostro. Ostro, sì. C'era anche l'altro, Astra. Ehi, e Piero Drago dice a Ostro. Ho conosciuto a Prascopia, questa era morta comunque di Tricchia, mi sembra già picchia. Prascopia era esattamente il via Tizio. Sì. Io sono arrivato a Sassari nell'83 e abitavo via Montegrappa, non ne avevo dei baracchino lì. Non ne avevo. Nell'85 poi sono arrivato qua e ho messo il baracchino, capito? Quindi mi ricordo perfettamente tutti, grandi bei tempi, infatti quando ho abitato qua ho conosciuto a te, sì, siamo venuti a casa tua, a Ambarira, mezzanotte, l'una di notte, a mangiare la duccia, voi ragazzi mi avete dato. Io abitavo da solo allora. Sì, via Maddalena. E io, poi ci va a fare qua. Però per sapere che tu stanno volando per il cittadino, poi io ho finito pensare qua, mi sono volato, qua a volte dico, ma peggio i maglietti capo. Strano guarda, però a ripensare tutto quello il tempo dietro, di tutti che ne sono fatti. Non ci credo neanche io, non ci credo. Poi le primarie mi stanno volando, ho fatto... Non stai scherzando, il tempo sta volando, Tony. Io l'ho finito nel 70... inizio 79. Infatti ho goduto, si è volato il tempo. Ma ha volato però. Cavolo, tu hai fatto il giorno, faccio. È già finito quest'anno proprio una dipensione. Se non è stato pessimo. Pare rimane giocato in frequenza, guarda. Mi ricordo che ho iniziato con quel palazzino, il faccio 2030 che avevo preso grazie se non mi aveva dato via per ci faccio mangiare. E ne avevo preso una Panther anche io. Ne avevo preso una Panther io con Fidel Castro, l'avevo andato assieme a comprarlo, e mamma mia, lascia perdere, cazzo. Meglio non fare cutti, lascia perdere. Uia. Vabbè, però sono tanti anni, tanti lotti, mamma mia. E poi qualche baracchino lo vedeva anche Pietrino per la rossa, buon'anima, mi ricordo bene, anche Mario Mauro, una bravissima persona, guarda, lavorava con l'agenzia Farina che si va via, via Napoli. E come diceva Pierroccia, che dico io a Pierabellea, che era pure il capo, era molto più grande di me, io ero ragazzo, chi ti avrà avuto roba di 40 anni, era fuori il tempo tutto, perfetto. Ma l'UFO, che è riccato, vedete che ci ha fatto, cazzo? E ce ne sono CP allora, cazzo. Zucca Zucca Giancarlo, Barbera, Fiocina, Cerotto, e la voglia. Sì, vabbè, ma ha detto i nomi nativi che poi non ho più continuato. E tu immaginati che a me mi conoscono una vita, io sempre questo nome attivo ho avuto, Claudio Sparviero, batte. Da quando sono entrato oggi, sempre, infatti molti dicono, ma tu sei lo Sparviero di sempre, io sono. Fino a quando non mi ammazzate con il fucile e mi buttate a terra, sempre io sono. No, io a prima periodo sono entrato come Tonino San Nicola, perché abitavo in via Maddalena, quindi vicino a Chiesa Nicola. Ma l'ho tenuto 5-6 mesi. E poi niente, era fissato con Cavazzac e da lì non ha potuto venire giù. Ma ti ho conosciuto Tonino Cavazzac, ma per dirti, i nomi attivi sono sempre quelli. Sempre quelli. Non ho più sentito a Daniel da Oristano, che se sei in ascolto Daniel, un abbraccio, buon Natale, fatti sentire la mazza de Nevaria. Sempre entrava a salutarmi, adesso non sta più entrando, deve essere impegnato. Ma io devo capire una cosa, che è più facile parlare con l'America che parlare con la Sardegna, con Cagliari, dipende dalla posizione, guarda io da qua non ho problemi, tranquillo, io arrivo sino a 4 Sant'Elia, praticamente sei a Cagliari, il 27, io con Daniel ci facciamo certi QSO, e sente solo esclusivamente a me la Sassari, non c'è Cristo che arrivi nessuno, manco quelli che pensano di essere più forti, assolutamente. Perché un giorno io gli ho telefonato, tu la c'è un consiglio su 10, senti questa persona, e lui mi ha detto assolutamente no, non arriva qua, proprio per non entrare e demoralizzarlo. Ed è uno che ha una buona posizione, uno che è molto in alto, capito? E non arrivava, solo a me se ne. Ma io ho fatto anche la registrazione, l'ho mandata a Giulio, l'ho mandata a Gianni, l'ho mandata a tutti. Arriva Santiago 8 qua, fatti lungo, Santiago 8, io gli arrivo Santiago 9. C'hai la bella posizione pure già, da qua. Come anche Gianni adesso per Perugia la bella posizione. Ma Gianni con la telefono, non avete Gianni? Ma Gianni c'ha una buona posizione per il mare, Porto Torres, però siamo lì. Io ce l'ho a 360 gradi, Tomino, no, nessuno io. Mi è venuto Luca, i due Luca sono spaventati, non siamo saliti sopra. Mi si vede Porto Torres, se sei un binocolo buono, vedi la gente passeggiandomi. Cioè, vedo tutto, dalla alla zecca, tutto, a 360 gradi. Io dove abitavo prima, vedevo tutto lo stesso qua. Io abitavo praticamente nel palazzo di Pesaro. All'ottavo piano, nell'ambito, io vedevo tutto. Ehi, ma qua io sono già a livello del mare, quasi a 300 metri. Sassari è sotto, Tony, capito? Sassari è sotto di me. Questa è la zona più alta che c'è, questa è la zona su di Filigheddu, alta, capito? È più alta di Monte Oro. Io sono andato con l'altimetro, dove abito, dove c'è la campagna di Genova, Monte Oro. Ok, è più bassa rispetto a dove sono io, a dove è la mia posizione dell'antenna, eh? Ehi, capo, lo so, sei in alto. Via Milano, su. Lo so. Impressionante. Se ti vuoi dire, Luca si è assustato. Ma io poi ho filmato, mi avvicino lì, io vieni qua. Sono andato io all'angolo a attaccare i tiranti, credo. Dici cazzo, ci vedi le macchine in barri in motobiciclette, no, avvisato di esserci a 50 metri d'altezza. Quello dovrebbe essere la bella posizione più alta anche della tua, dove c'è il centro ecologico. Leggermente più alta, come piano stradale, ma come altezza dove sono le mie antenne, sono ancora più alto io del centro ecologico. 52 metri sono, Tony, lascia perdere, di pazzo, dove europeo e le antenne sono 52 metri, aggiungi 275 metri a livello del mare, vedi tu, amo già 30, vai già. E io ho finito adesso. Andiamo a già. Oh, mamma mia, non ce la facevo più, volevo entrare. Mi tratteneva ancora, dai, vabbè. E c'è anche la fanno, c'hai. Ui. Via, ah, ma stavo amoreggiato, dai. Stavo parlando di buco. Cazzo, sembra che abbia trombato al telefono. Cazzo, già. No, no, è perché sono pure in carto, dai, adesso sto parlando a voce bassa per non disturbare. Ehi, ehi, non ci puoi stare in questa stanza, devo aprire, cazzo, la fine, vai, c'è un cazzo, grubi, c'è un uomo, c'è un cuscio dentro. Perché già, chi ti stupirà a me? No, i vicini, purtroppo ci sono dei muri toliti, che se loro fanno gli zaghi, li sei. Chi cazzo che fa? Quando si scuote per il tuo rudio, ti intendi? Io no. sono muri fini, sono, non sono, sì, sono anche, come si dice, sono, penso che siano foratini, non lo so, si sente tutto, se tu metti il bicchiere e ascolti, senti tutto quello che dico. Io l'avrei ben rasseronizzato con la camera, allora, dimmi quello che vuoi. E ci metto i cartoni delle uova, come si facevano le salette prima. Oppure poliziono, proprio puoi far entrare. Sì, si sente il letto pure. Sei di grazia. La lucchi. Io sono Giuseppe Candelubati. E ti fa la camuccia della porta, ti apri sì, sei che ci reggi. Ma no, io li potrei sempre comprati pure. Beh, comunque Claudio, ma che il centro conosci, conosco l'altro lì. Io ti sto dicendo a livello stradale, ma a livello di palazzo le mie antenne sono più alte del centro ecologico. Guarda che c'è salita sopra il centro ecologico, perché ce l'abbiamo noi, la riparazione, è nostro. E quindi c'è salito il tuo piano e capita, io vedo tutto. E vedo la zona anche tua, è basso, diciamo, rispetto al centro ecologico. Basso? E guarda, vabbè. Noi andiamo sopra il tetto mio, io ti faccio vedere il terrazzo del centro ecologico, a vedere se è più basso di me. Ma io basta metto un livello, guarda il filo di livello e ti vedo più basso. Con il livello da un palazzo all'altro, così devi si lonci. Allora, ma capito, il corridoio del terrazzo, io metto il livello normale, no? Io mi abbasso, mi tiro, mi guardo a filo di livello, guarda verso il sasso, verso la zona di Claudio. Ma tiro che mi tiro e non ce l'ho. Allora, guarda, se tu ti vuoi togliere la soddisfazione, prendi il telefono, metti su Google Maps, ok? Se vuoi lo facciamo assieme. E scrivi centro ecologico e ti controlli l'altimetro e cosa ti dà. Ok? Poi fai via Milano, Carbonazzi e guarda vedere quanto è la differenza. Poi a quella differenza aggiungi 52 metri di palazzo. Sì, fuori Tony, è completamente fuori posizione, sono molto molto più alto, almeno di una ventina a 30 metri, 20-30 metri più alto. Scusa, quanti piani è il tuo palazzo? 10 piani. E sono 30 metri. Sono 30 metri. Perché sono 3 metri a piano? Perché fino a prova contrario sono così, più o meno. Ah, assolutamente no. Devi contare 3 metri di porticato, ok? 3 e poi partono i 3 piani. Ok? Quindi sono 33. Più 5 metri c'è di mansarda, perché il tetto più alto mansardato è 5 metri, e siamo già a 38. Altre 5 ce n'è di sopraelevata dell'ascensore, ne sono. E poi c'è 6 metri di tubo d'antenna, quanto gioco? 48. È un gioco di 30, siamo lì. Io non so perché l'ho già misurato, ho fatto ma di tutto e di più, proprio per sapere esattamente non dire coglionate. sono 50 metri, poco meno di 50 metri d'altezza. Scusa, quel palazzo che è più alto del tuo, ma come adesso quanto il cavolo è alto? Quello c'ha due piani in più, però è di dislivello leggermente più basso, anche se ha due piani in più, è 5-6 metri più basso sotto. Eppure sembra più alto, eh? Sembra più alto perché quello lì è 12 piani, capito? 12 piani, quindi lo vedi più alto. Se tu però vai da me, se tu vai sul tetto mio, siamo allo stesso livello, la mia antenna lo supera quel palazzo. Tu. Google Maps, questo centro ecologico qui a Milano, Carbara. Guarda, non mi fai nulla della Santa Vittoria, puoi arrivare più forte in detti piatti, ma arrivo anche io, non c'è problema. Io da lì sono arrivato, sai dove? Alla Basata, dalla macchina via, e ho parlato con quello che mi ha fatto il primo baracchino, con, come si chiama, no? Quello di Terralba. Ma non mi viene il nome, vabbè, comunque ho parlato con lui, ma chi sei, Gianni Doppio Rum? Sono io quello che ti ha fatto il baracchino. Roberto poverino, quello è morto, l'ha rimatto, già, poi bisogna andare a Santa Vittoria, parlo l'acquaio, tutta quella zona. Vabbè, dai, siamo qua delle zone, ognuno c'è la sua, io sono contento di questa. Va bene così, era un punto di riferimento, una volta poi mi sono ritirato, come diceva qualche radioamatore che non sta più parlando, è mancato il punto di riferimento del nord di Sardegna, pazienza, qua volevamo mettere un ripetitore, lo sai che sono stato io, al contrario non l'ho fatto mettere, lo sai. Ma ripetitore cosa? Radioamatoriale? A parte radioamatoriale, no. Non l'abbiamo messo perché sennò io non potevo più parlare. Il ripetitore della telecom volevano mettere. Ho puntato i piedi e non li hanno messo. No. Porta troppo inquinamento atmosferico. Ti viene il cancro, questi cose. Perché non l'hanno messo? Perché metà del tetto è il mio. Siccome gli appoggi, le zanche delle tradici dovevano appoggiare sopra il mio tetto, ho detto tu non ne metti, ma noi abbiamo un contratto, tu non ne metti, e ti dico una cosa, muoviti a scendere senza prendere neanche le misure, se no invece di farti scendere le scale, perché li hanno fatti salire, capito, li ha fatti salire l'amministratore senza sapere niente io, ok, io sono salito all'improvviso perché vedevo traffico laggiù e c'erano già le mie antenne e tutto, sono salito all'improvviso, ho visto questi tecnici prendendo misure, e tu la stai tracciando, la stai facendo, prendendo le misure, perché qua ci vanno le zanche, dove ci vanno le zanche? Qua, ho detto, fa una cosa, non prendere neanche le misure, muoviti a scendere dal tetto, capito, che sei passato a casa mia, perché altrimenti ti faccio volare dal tetto, non ti faccio manco prendere l'ascensore. E anche vicino a casa ce ne sono belli questi ripetitori, ne hanno messo due sotto un palazzo, ne hanno messo un altro nella strada che porta su al monte, no? Ha avuto un attacco l'amministratore, non ti permettere mai più, era solo un preventivo, non ti permettere mai più di far salire nessuno senza il mio ordine, a casa mia, capito? Non ti permettere mai più, facciamo stati un bel po' che non ci parlerò, poi niente, e non li hanno messo assolutamente, perché quando abbiamo fatto la riunione condominiale, io appunto avevano fatto tutti, erano una parte favorevole, non favorevole, insomma eravamo un po' missi, alla fine è toccato a me. Dice Marti, la sua parola è quella che vale. Allora guarda, da questo momento a me non mi cercare neanche, gli ho detto, perché la mia parola non vale. Ripetitore, sul tetto, non se ne mette. A posto, pratica archiviata, ciao a tutti, aiuto, tutto a casa. Un casino, un casino quando mettono queste cose. Piccolo che pagano, che danno tanto ai conduttori. 5.000 euro al mese ci davano a noi. 5.000 euro al mese, infatti non ha potuto la vita. No. Allora io dove vado a piazzare le mie antenne a casa mia, dove le metto io? Che io ho finito. Rumori, casini, radiofrequenza, ha detto di tutto e di più. Ma come? Ascolti. lei che cos'è, un tecnico della Telecom, io sono un radioamatore, siccome quel tetto metà è il mio, ok, dovrei deve mettere le zanche, i piantumi per mettere il, deve bucare il mio tetto. Questo è scelto, questo è il mio tetto, sì. Metà di questo è mio, il resto è del condominio. Quindi vedrei, dice questo amministratore non ce l'ha detto, lo sto dicendo io, se vuole vedere faccio delle carte, ma non sono manco obbligato. La sua parola contro la mia, quindi faccia la cortesia, aiuto, scendete giù, prima di sicuro, tutti e due mi così sanno, gli ho detto, no, continentali, milanesi. Ho detto prima di sicuro, tutti e due io sono.